siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia. RCD, Radio Calcio Dilettante, presenta Gente di Sport, un programma a cura di Francesco Atlante Beltrami. Oggi Francesco Atlante, che condurrà la trasmissione, intervisterà il podista e ciclista Claudio Brogi, direttamente nella sua casa di Cocchio Trevisago, alle pendici del Parco dei Campo dei Fiori di Varese. E torniamo alla nostra sigla, Umberto Tozzi e Raffa, con Gente di Mare. Buongiorno, amore, per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, che sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci il pensiero alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare, che se ne va, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo a Cocchio Trevisago per questa puntata della nostra trasmissione Gente di Sport, dedicata agli sportivi dilettanti che comunque si sono distinti nel corso della loro carriera, pur non essendo per loro questa una professione. Siamo qui con Claudio Brogi. Claudio Brogi è uno sportivo ormai da tantissimi anni sulla strada, e non dico sulla strada a caso, perché è sempre stato un appassionato di sport di fatica, è stato ciclista, è stato specialista della mountain bike, è stato corridore a piedi sia delle maratone che delle corse in montagna. Dunque, Claudio è una classe 1954 e avrà tanto da raccontarci delle sue esperienze, quando da ragazzino iniziò con le competizioni in bicicletta fino praticamente a ieri, quando ancora oggi si diverte a vincere nelle categorie veterani, essenzialmente questa volta nelle gare di corsa a piedi. Bene Claudio, ti ringraziamo di essere qui con noi, di averci concesso questa chiacchierata. Va bene, buongiorno a tutti, ciao Francesco, grazie di essere venuto qua per questa, per questo mio racconto di, così, di una persona normalissima che inizia all'età di 17 anni a fare dello sport. Quindi hai iniziato abbastanza tardi rispetto ai parametri attuali, perché adesso ormai i ragazzini li buttano in bicicletta a 6-7 anni. Ma ben contento che di iniziare a quell'età, perché se fossi, credo che se avessi iniziato prima, magari avrei anche smesso prima, ma come ho visto, come vedo ancora oggi, che purtroppo ragazzini ancora diciamo a tenera età che vengono così messi in bicicletta oppure spremuti un attimino nel mondo della, come si chiama, dell'atletica o del ciclismo, secondo me non va bene. Comunque all'età di 17 anni, secondo me, hai iniziato con le prime corse in categoria allievi, immagino. Esatto, allora c'era la categoria allievi, io mi sono avvicinato alla bicicletta innanzitutto perché la bicicletta era mezzo che a me ha sempre affascinato, e poi vedevo questi ragazzi che pedalavano e dico, ma perché non provare anch'io? Mi sono buttato dentro in una compagnia di ragazzi, e allora mi ricordo che la US Sant'Ambrogio era una società vicino a Comerio dove io abitavo, e lì mi hanno tesserato, e diciamo che però insomma ai tempi era un po' tutto così, insomma si parla di tanti anni fa, più di 40 anni fa, era un po' tutto così, nel senso che era un po' un autodidatta, un po' dovevi cercare di capire come fare, come non fare, e vabbè, e lì sono partito con la mia avventura che è stata bellissima, e un anno dopo l'allievo ero già nei dilettanti, quindi la cosa si faceva un attimino più seria. E so che hai proseguito nei dilettanti fino a diventare un prima serie nei dilettanti, adesso non so se ci chiamavano già elite come adesso, o forse c'erano delle classificazioni diverse in quegli anni. Ma allora c'erano i dilettanti di seconda serie, di terza, di seconda, e poi passavi di prima, e infatti io non ho avuto problemi una volta in bicicletta, insomma ho visto che pedalavo bene, i risultati arrivavano, e da dilettante di seconda ero l'anno dopo subito di terza, correvo appunto con i primi e seconda, perché quei punti che avevano mi facevano correre con le categorie superiori, e da lì iniziavo a scoprire le mie doti da scalatore. Purtroppo non avevo la volata, per me era difficile piazzarmi sempre, arrivare sempre nei primi, non avendo la volata. Avevi bisogno quindi del percorso duro della salita. Esatto, aspettavo appunto la salita per potermi sganciare e arrivare comunque. Quindi poi sei arrivato qua alla prima serie, che è un po' la porta, diciamo così, del professionismo, di lì bisogna, esatto, passare se qualcuno, se vuoi arrivare a farne almeno per qualche anno una carriera. Professionismo però che per te non è arrivato, perché l'anno decisivo... E non è arrivato perché l'anno decisivo, purtroppo per problemi miei personali, purtroppo per tante cose, vuoi che alla fine non lo so, non ci credi più, il lavoro, una storia quell'altra, insomma c'era tutto un po' da mettere insieme, e lì è stato l'anno della decisione di dire beh basta, un po' anche di sfortuna, devo dire che la sfortuna mi ha accompagnato abbastanza quell'ultimo anno decisivo, e allora ho chiuso lì. Quindi magari c'è pressione anche un po' della famiglia, esatto, hai fatto questa scelta di passare. Allora era così. Poi sei diventato bancario, da lì, a livello professionale è iniziato tutto un altro tipo di vita. Insomma. Un'altra storia, un'altra vita. Però dopo lo stacco musicale, Claudio ci racconterà che pur avendo iniziato un'altra vita, il suo rapporto assolutamente di primissimo livello con lo sport non è cessato. Adesso un attimo di musica e poi ci ritroviamo con Claudio. Dedichiamo a Claudio questo brano dei Queen, che spetta di diritto secondo noi a tutti coloro che nello sport hanno inseguito i loro sogni, anche se non era per loro una fonte di guadagno economico. We are the champion. Bad mistakes, I've made a few. Eccoci di nuovo qui con Claudio Brogi. Allora, finito la sua avventura nel ciclismo, rimessa, diciamo così, la testa a posto e ricominciata un'attività lavorativa, però tu avevi ancora voglia di andare, avevi ancora voglia di muoverti, avevi ancora voglia di uscire per almeno la domenica, e quindi hai scoperto la corsa. Eh beh, allora io credo che all'età di 23 anni uno non si può fermare dopo aver corso per 5 anni a livelli, insomma, a dei buoni livelli nel ciclismo, non ci si può fermare. Sì, allora abbandoni la bici, l'attacchi al chiodo, come si dice, ma poi hai voglia di fare qualcosa. Ed ecco che lì un amico mi dice: ma perché non corri a piedi? Insomma, se la bicicletta ti ha dato questa delusione, vieni con noi, usciamo la sera, corriamo, siamo una compagnia. E va bene, ci ho provato così, tanto per provare, e mi sono appassionato veramente. La corsa a piedi mi ha dato tanto, mi ha aperto, diciamo, una strada, un'autostrada su altre cose che non pensavo arrivassero mai. Poi con il tempo, correndo, hai messo insieme il fatto della corsa con il fatto di quella che era la tua caratteristica quando correvi in bicicletta, cioè la salita, e sei arrivato alla corsa in montagna, che forse è stata la parte più interessante della tua carriera come corridore. Anche perché poi le tue qualità che avevi nel ciclismo le riporti anche a piedi. Capisci che nel ciclismo te la cavavi e correvi bene in salita, e correndo a piedi riscopri ancora quelle doti di scalatore. Ed ecco che lì non ho fatto fatica nelle prime gare nostre che c'erano nella zona, poche gare in montagna che c'erano, però lì ero subito nei primi, perché avevo questa dote che mi portava avanti. So che hai un record particolare qui vicino alla Luvinate Campo dei Fiori, lo scarpo, come si chiama, lo scarpone luvinatese, ecco, dove che hai vinto 11 volte in fila. Allora, io abito nella zona qui sotto il parco del Campo dei Fiori, abitavo a Comerio, adesso a Cocchio, ma lì c'era una gara che da qualche anno anno veniva fatta ogni primo maggio. Questa gara, appunto, dalla, partendo da Luvinati, attraversando tutto il sentiero e la, che porta al, alla, all'osservatorio, mi affascinava. Io provavo qualche volta ad uscire in allenamento e mi piaceva questa gara. L'avevo presa come, non lo so, un bacco di prova, che ne so io, vabbè. E allora lì ho cominciato a piazzarmi bene per un paio d'anni dietro un grande campione, che poi ci siamo conosciuti e con lui ho fatto le gare in giro per l'Europa, e da lì ho iniziato a vincere questa gara. L'ho vinta 15 anni consecutivamente e 17 anni. L'hai vinta 17 volte, di cui 15 anni consecutivamente. Io mi ero fermato a 11, probabilmente ho letto un programma prima che finisse la tua serie, un albo d'oro poi datato a prima che finisse la tua serie. E con un tempo record anche mio, personale, che comunque non ha, è stato ancora battuto, di 34 minuti e 23 secondi. So che l'hai corso ancora di recente, tra l'altro finendo a, a 60 anni ancora nei primi 20, se ricordo bene. Sì, sì, nei 10 ci sono ancora. Quindi... E del periodo, diciamo, forse più interessante, insieme a questo campione svizzero Soler, se non sbaglio si chiamava, che hai fatto per l'Europa, cosa ricordi? Ma io ricordo giravi con una squadra, con un gruppo sportivo svizzero, giusto? Sì, sì, sì, era questo, era questo, questo mio amico svizzero, che lui, non lo so, mi aveva invitato con lui a fare qualche gara, perché stavano mettendo insieme una squadra, anche allora era, era composta da, da me, da uno spagnolo e da lui, e c'era anche un certo Lanini di Bellinzona. E da lì mi ricordo la Sierra Zinal, la Sierra Montana, tante gare delle, praticamente sulle montagne svizzere e anche francesi, che erano veramente gare toste, però comunque diciamo che puntualmente arrivava sempre il piazzamento o il podio, c'era quasi sempre. E poi vediamo che tra i 35 e i 40 anni, insomma, ormai in categoria veterano, riscopri la bicicletta, e certo, abbinandola alla corsa. È proprio tutta una carriera fatta da, di passaggi uno dietro l'altro, e provi col ciclocross. E certo, perché la bicicletta è lì, ti guarda, insomma, voglio dire, non la puoi dimenticare, è la prima amorosa che hai. Come fai a dimenticare questa bicicletta che tutti i giorni te la vedi lì davanti quando entri nel garage? Allora ecco che la riscopro, la prendo, la riconverto e voglio fare del fuoristrada, il ciclocross. Il ciclocross mi sono messo in testa di fare, perché? Perché lì li vedo alla televisione, corrono nella palta, vedo che scendono, corrono, risalgono, insomma, uno sport di fatica, uno sport che poi tutto sommato c'è anche qualche salita, qualche cosa alle scalinate, queste cose, e allora perché non provare, via, mi butto dentro con le gare dell'Udace, no? E di lì però non è facile, scopro che praticamente mi davano il giro, anche due giri all'inizio, ma non capivo perché. Io correvo anche bene nelle campestri, ero... Quindi il fiato c'era, insomma, mancava forse un po' di tecnica. Mancava qualche cosa, che era la tecnica, insomma, la preparazione in bicicletta, e da lì, insomma, ho iniziato a prepararmi meglio con il consiglio di qualcuno, e poi ho cominciato a risalire stagione dopo stagione, dal campionato provinciale al campionato lombardo, e sono arrivato a vincere questo benedetto italiano ormai nella categoria veterani. Però comunque ci sono arrivato ed è stato per me una grande soddisfazione. Bene, l'avventura di Claudio Brogi non finisce però col ciclocross, sarebbe stato troppo semplice. Un po' di musica e vediamo che poi ci racconterà con quale mezzo ha continuato a mietere successi in questo mondo dello sport di fatica che è il ciclismo. E dunque per Claudio un altro brano molto specifico, I ragazzi di 40 anni di Tom Gallizia, che racconta la storia di chi è ancora intento a inseguire i suoi sogni quando invece dovrebbe per la società comune essere intento a occuparsi di cose molto serie. Il titolo nel brano ai ragazzi di 40 anni, perché Tom Gallizia in quella fascia si trova, ma vale anche per i cinquantenni come me o per i sessantenni come Claudio, che ancora non hanno rinunciato alle loro imprese. Siamo rimasti indietro, siamo finiti troppo avanti. Noi che siamo ancora sul rock, mentre gli altri dottori, avvocati, persone importanti. Però sono sincero quando dico che non ho rimpianti, anche se correndo dietro ai miei sogni, in fin dei conti sono rimasto uno dei tanti. Lo so che noi siamo a pezzi, loro sembrano tanti, ma poi sono tutti qui a batter le mani ai nostri stessi cantanti. Ragazzi di 40 anni stanno ballando come orsi ubriachi, poi si abbracciano ridendo in memoria dei bei tempi passati. Ragazzi giusto, perché la musica perdona tutto, questo tu già lo sai, per questo mi capirai, se dico che giù i pezzi forti li dobbiamo ancora suonare, verranno tempi in cui le nostre chitarre si faranno ascoltare e non sarà follia. Solo l'inizio di un periodo migliore che non andrà più via, perché sarà chiaro per tutti che la strada da seguire. Ma poi, così diversi non lo siamo stati mai, perché siamo tutti qui a batter le mani agli stessi cantanti. Ragazzi di 40 anni stanno ballando come orsi ubriachi, poi si abbracciano piangendo in memoria dei bei tempi passati. Ragazzi di 40 anni con le loro vite un po' storte, adesso sono al punto giusto, perché la musica perdona. Tu già lo sai, per questo mi capirai, se dico che giù. Eccoci ancora con Claudio. Dunque, abbiamo parlato di bicicletta, ciclismo tradizionale su strada, abbiamo parlato di corsa campestre, di corsa in montagna, abbiamo parlato di ciclocross. E cosa manca? Manca che Claudio, insieme a diversi personaggi locali anche conosciuti come l'ex professionista Botteron, è stato uno dei pionieri della mountain bike in provincia di Varese. Sì, allora la mountain bike arriva proprio negli anni 89 per me, la scopro proprio a questi diciamo livelli agonistici, e qua si parla di prime gare così che si svolgevano. La mountain bike era affascinante, era bella perché ti dà la possibilità di andare nel fuoristrada e lì bici da montagna, chiaramente bici da montagna, ma in montagna, terreno a me adatto, preferito. E niente, lì chiaramente nel è stata una grande passione che corsa con il ciclocross d'inverno, la mountain bike a partire dalla primavera fino diciamo a settembre, mi dava il modo di fare parecchie gare anche in giro per l'Italia, perché poi allora correvamo l'Italia Cup. Nel 91 ho corso i mondiali al Ciocco, mi sono prestato bene, ho corso con professionisti di un certo rilievo, ho avuto grandissime soddisfazioni e ancora adesso la mountain bike, che ormai non faccio più le gare come prima, però è per me la cosa, cioè, diciamo lo sport ancora che preferisco. Ho paura un po' ormai per la strada con la bicicletta, perché la strada è diventata pericolosa. Vai. Va bene, allora questa mountain bike mi ha dato la possibilità di vivere la mia montagna, la mia zona dove mi sono sempre preparato, la giro appunto tranquillamente così. Perché è una passione che tu coltivi anche a livello turistico, diciamo. Sì, esatto. Io poi quando anche addirittura faccio le vacanze, vado anche in Francia, così la mountain bike è il mio mezzo preferito per andare sempre col fuoristrada, e credo che mi diverte, mi piace, non mi stressa come sulla strada, proprio perché le auto, la paura di andare così, ed è il mio mezzo ideale per divertirmi dopo la giornata di lavoro. Credo che ti rimanga un rammarico, cioè il fatto che per un problema fisico tuo che ti trascini dall'infanzia non hai avuto la possibilità di provare il triathlon, perché non puoi nuotare. Esatto. Perché con le caratteristiche che hai io sono convinto che saresti stato un triatleta di livello altissimo. Esatto, sì. Anche perché tra l'altro il nuoto delle tre specialità di solito è quella che fa perdere e guadagnare meno tempo. Esatto, purtroppo l'acqua non mi sono mai potuto avvicinare più di tanto per dei miei problemi personali, però ho provato con il duathlon, ho avuto anche lì dei risultati, praticamente dalla bicicletta alla corsa a piedi, è una cosa che io ho sempre macinato, per cui non avevo difficoltà, e per quel periodo che l'ho fatta anche lì le soddisfazioni non sono mai mancate. Un momento speciale nella tua carriera so che è stata la Marathon de Sable. Ecco, questo è stato un momento importante, perché avvicinarsi a queste gare non è facile, è una gara particolare, devi essere preparato sia fisicamente che mentalmente, e devo dire che è stata così una lezione di vita questa gara qua. Ho imparato tanto, facevo parte dell'equipe Italia, che c'era anche Marco Olmo, uno dei grandi delle super maratone, e lì l'ho conosciuto, ho imparato tante cose da lui, dall'alimentazione al modo di correre, e praticamente quando vai a fare queste gare qua, insomma, non conosci nulla, non sai nulla, l'ambiente è ostile anche dalla temperatura, che da di notte va dai 0 gradi, di giorno arriva quasi a punte di 50 gradi, per cui sono tante le cose che vai a scoprire in queste maratone estreme, però ti insegnano parecchio. E ultimamente so che hai provato e finito anche nella mezza maratona e nella maratona in giro per l'Europa, una volta all'anno so che avete una compagnia che parte e va a provare. Esatto, allora siamo una compagnia che ci diciamo, ma perché non andiamo a visitarci, non so, una capitale, giro per l'Europa ogni primavera, così noi prendiamo da Berlino a Budapest, a Parigi, e in giro per l'Europa ci facciamo questa mezza maratona, che comunque ho ottenuto dei buoni tempi dall'1.18 ormai alla mia età, insomma all'1.20, all'1.22, così, che a me va anche bene, ci divertiamo. L'obiettivo non è certo arrivare a vincere la gara, ma divertirci, guardare soprattutto la città e vivere questa giornata. Anche se so che comunque litighi sempre con gli organizzatori perché non vuoi partire troppo indietro, nel senso. Sì. Allora cerchi di... Il lupo perde il pelo, ma non è vizio. Io cerco sempre di partire davanti, poi se mi va bene, mi va bene. Ma l'importante è vivere una giornata con gli atleti. Che è sempre bello. A livello del tutto turistico, so delle tue partecipazioni in Francia alla Semaine Nationale, che è una cosa che in Italia non ci immaginiamo credo nemmeno, e che invece è un appuntamento amatissimo dei cicloturisti. Esatto, la settimana federale, la Semaine Federale in Francia, ogni anno si svolge la prima settimana di agosto, e io sono ormai diventato un frequentatore, immancabile, perché è veramente bello. Qui si tratta di andare a vedere dei bei posti della Francia. Io ho visitato tutta la Normandia. Tu fai questa settimana, praticamente ogni giorno hai un percorso che decidi tu in base a quello, a un roadbook che ti danno. Puoi fare da 50 km a 100 km, a 150 km, a 200 km. Quindi ti dà la possibilità, se tu vuoi andarci con tua moglie che pedala, ma che non ce la sente di fare 150 km, esatto, lei può farsi meno. 50 e tu, esatto, puoi farti quello lunga, la sera ti ritrovi comunque nella, esatto, stessa e città. Devo dire che queste sono delle belle cose, che viaggi in sicurezza perché le strade vengono chiuse, hai la poi c'è, immagino, assistenza medico, ambulanza, scopa, cioè, esatto, c'è tutto, c'è un'organizzazione incredibile che ti dà la possibilità di vedere posti a chi piace la Francia. Io me la sto visitando un po' tutta in quella maniera qua, che è veramente bella. Poi con la bicicletta te la guardi in una maniera incredibile. E un'ultima cosa prima di salutarci: so anche, perché io so tante cose di te, che ultimamente hai provato anche a volare. Eh sì, perché poi passano gli anni, insomma, devi invertarti qualcosa, per cui diciamo che a 50 anni mi sono fatto un regalo, mi sono preso il brevetto di volo da diporto, e per cui col parapendio mi diverto sempre dalla montagna a girarla, a volarla, perché è bello correre, ma è anche bello volarla, vederla dall'alto, questa mia montagna che mi ha dato tante soddisfazioni, correrla su e giù, ma vederla dall'alto e girarla intorno è veramente bella. Bene, allora prima di salutarci facciamoci una reciproca promessa, visto che hai provato di tutto e di più e che io gareggio in automobile, cercheremo di organizzarci per fare una gara in macchina insieme. Sicuramente. Perché una gara in bicicletta io finirei per terra dopo 10 metri, mentre invece in macchina dovremmo riuscire a... Sicuramente, è una cosa che mi ha sempre affascinato, e caro Francesco, questa promessa sarà da mantenere. Da mantenere l'anno prossimo. L'anno prossimo ci saranno i festeggiamenti, perché dureranno un anno, perché sono megalomane dei miei 50 anni, e quindi vedremo di inserirci anche questa sicuramente cosa. Benissimo, ti ringrazio, grazie. Bene, ringraziamo allora Claudio Brogi per averci ospitati e per questa intervista che ci ha concessi, e passiamo a un pochino di musica prima della sigla. Ciao Claudio, grazie. Grazie a te, ciao, arrivederci. Tom Gallizia, vecchia Alfa Romeo. Vivo dentro una roulotte alla fine della strada. Vivo insieme a un grosso cane, quattro dischi, una chitarra e la auto per mestiere. Alla stazione della Shell mangio poco e parlo meno, finché il sole se ne va. Poi alla notte esco solo su una vecchia faro mio, raccolto da uno sfascia che non respirava più, l'ho riempita di benzina, le ho lisciato un po' col pelo, mi ha graffiato sopra il cuore ed ora nulla lascio più. Beh, può anche darsi che qualcuno non capisca i miei perché, può anche darsi che qualcuno stia per ridere di me. La radio traccia fuori, non ci son più i guai. Ed ora vai, vai. fine della strada. Yeah. E siamo ormai arrivati al momento di salutarci. Ricordiamo prima della sigla il palmarès di Claudio Brogi a livello di campionati italiani. Claudio ha vinto 5 titoli italiani nelle varie categorie veterani tra mountain bike e ciclocross, tra federazione ciclistica e Udace. E poi, anche se magari questo farà sorridere qualcuno, lui in primis ha ottenuto 7 titoli italiani nei campionati che vengono organizzati ogni anno, riservati ai bancari. Quindi, detto questo, passiamo alla sigla. Umberto Tozzi e Raff con la loro Gente di Mare. L'appuntamento per tutti e alle nostre prossime emissioni. La trasmissione sul calcio internazionale minore stasera c'è Delirio a Serravalle. E quello che vorremmo riuscire a proporvi nelle prossime settimane sono appuntamenti dedicati al calcio femminile e al calcio regionale, che prima o poi, vi promettiamo, partiranno. Un grazie a tutti i radioascoltatori di RCD e adesso è veramente tempo di sigla. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia. Abbiamo trasmesso Gente di Sport, un programma a cura di Francesco Atlante Beltrami. Ha condotto Francesco Atlante Beltrami. Era nostro ospite in studio Claudio Brogi, podista e ciclista di varie discipline, strada, ciclocross e mountain bike, 5 volte campione d'Italia, veterani. Un grazie a tutti i nostri radioascoltatori. RCD, Radio Calcio Dilettante, dove le tue passioni sono le nostre passioni. Ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, e sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare, che se ne va, più gente lontana che porta nel di mare, oh, oh, oh, oh, oh, che se ne va.